noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Immobile in area di rigore, si veste su di lui, ancora Immobile al cross dentro, deviazione, chiede il fallo di mano, Immobile, Giacomelli dice di no, Giacomelli dice di no, VAR, aia, aia, cartellino in mano, aia, rosso Immobile. Il braccio è molto largo. Molto largo. La Lazio è stata chiaramente danneggiata. Siamo arrivati fino a questo punto del campionato senza rubare a nessuno, con un gioco molto bello, con una squadra che ha meritato fino adesso tutto e vogliamo essere padroni del nostro destino senza che qualcuno deve incidere, sai, sui risultati delle partite, perché ci sentiamo non danneggiati di più. Eravamo andati sotto, eravamo rimasti lucidi, ci avevano tolto un rigore clamoroso anche a Genova, lo stesso Giacomelli che era in VAR, e lo stesso Giacomelli che l'anno scorso ci diede un rigore al 94esimo contro sempre a Torino con un braccio largo di Parola. Allora, cioè si deduce da no, sue parole. Assolutamente, perché adesso si stanno dando un po' tutti il giro gli arbitri, però adesso, come ho detto, non deve essere un alibi, perché se diventa questo diventa un problema per me e per i miei giocatori, quindi è successo. Con la rabbia addosso posso dire anche che stasera è stato, dal mio punto di vista, anche un grosso scandalo. Alla faccia delle polemiche che si dovevano spegnere, che dovevano essere spente dalle televisioni accese, quelle del VAR, ieri sera far west mediatico all'Olimpico in Lazio-Torino, con il Torino che vince 3-1, ma come avete sentito il succo del discorso accade a fine primo tempo, c'è quel rigore piuttosto solare per il fallo di mano di Iago Falchi, non viene visto, la VAR non funziona, proveremo a capire perché e per come e se è giusto questo o no a termini di regolamento. Poi 10 secondi dopo Immobile che viene espulso e da lì poi succede di tutto, compreso una Lazio incazzata da morire, addirittura Lotito avrebbe detto ritiriamo la squadra dal campionato, ci stanno danneggiando, avete sentito le dichiarazioni di Tare e quelle di Inzaghi, c'è Arturo Diaconale che è responsabile della comunicazione della Lazio che pure ha fatto dichiarazioni molto dure, molto molto dure, che avete letto sui giornali o sugli schermi delle televisioni. Noi ce l'abbiamo come ospite insieme a Pierluigi Pardo, che saluto. Ciao Pierluigi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Ciao. Confermiamo tutto anche il giorno dopo, sì. Sì. Confermiamo cosa? Confermiamo Eccomi. Cosa? Ecco. Beh, intanto confermiamo l'amarezza per una vicenda che ha dello scandaloso, perché appunto il rigore era solare, se fosse stato dato non avrebbe consentito quello che è avvenuto dopo, cioè un'espulsione che peraltro non c'era di Immobile, e soprattutto non si sarebbe verificato l'ultimo anello di una catena di episodi che dal derby con la Roma, passando per la partita con la Fiorentina, la partita con la Sampdoria, e adesso con il doppio errore di ieri, sembra essere diretta soltanto a penalizzare la Lazio. Quindi la rabbia per la vicenda c'è tutta. Certo, questo lo posso capire, ma pensate che ci sia, Pierluigi, intervieni, chiedi. C'è un disegno contro la Lazio? Un disegno, Arturo? Ma guarda, io sono contrario al complottismo e non mi piace neppure il piagnisteo, però diciamo la verità, quando gli episodi si ripetono in continuazione una domenica dopo l'altra, almeno il diritto al sospetto può essere rivendicato, perché vedi, qui non è problema di incompetenza. Dice, sai, gli arbitri sono scarsi e quindi può capitare che non vedano delle vicende solari. Ma qui non stiamo parlando di arbitri scarsi. Stiamo parlando di arbitri che sono professionisti e che vengono considerati tra i migliori del mondo. E allora, se non c'è incompetenza, che cosa c'è? Dice, ma la colpa è della VAR. Ma non c'entra niente la VAR, perché la VAR è uno strumento. Ad interpretare la VAR ci sono sempre le persone. Beh, questo, no, questo è evidente. Tra l'altro, scusa, no. se posso intervenire, questo è il discorso che facciamo dall'inizio dell'anno, nel senso che il VAR o la VAR, come cavolo si chiama, sicuramente in assoluto un beneficio lo dà. Però poi quando succede una cosa incredibile, certo, qualcosa incredibile, è ancora più difficile andare dai tifosi a dire che, perché un conto è un errore old style, no? Come poteva avvenire l'anno scorso, un errore in presa diretta, l'arbitro ha sbagliato. Il VAR migliora le cose in tante situazioni, ma quando non le migliora o addirittura le peggiora, come nella partita di ieri, insomma, ripeto, è complicatissimo andare stamattina a un tifoso della Lazio a spiegargli che perché lì ci sono degli occhi, l'occhio dell'arbitro di campo, l'occhio dell'arbitro di VAR, ed è incredibile, è veramente incredibile. Quello successo ieri è incredibile. Devo dire che il Torino in altre circostanze era stato sfortunato. Avevamo fatto i conti, diciamo così, altre volte. Non è un discorso di una squadra piuttosto che di un'altra. Poi in questo momento la Lazio ha accumulato un po' di episodi sicuramente. Vedi qual è la protesta, va bene. La Lazio sta facendo la sua protesta anche sulla spinta di una tifoseria che vuole che ci sia almeno la protesta, ma è una protesta che è rivolta a una richiesta precisa, cioè quella che il campionato sia corretto, trasparente e non sia condizionato da altre vicende, da altre questioni, da altri interessi. Tutto qua, perché poi noi dobbiamo rendere conto ai nostri tifosi, i quali ci dicono, ma scusate, ma che veniamo a fare allo stadio se poi è tutto quanto precondizionato è condizionato. Ecco Arturo, però perdonami, giusto per spiegarti, voi della Lazio non solo, quali sarebbero questi altri interessi cui fa riferimento? Siamo sempre all'interno di una di chi dice oddio che succede. Vogliamo che sia trasparente. C'è una serie di errori però che indubbiamente la Lazio. E allora perché la Lazio dà fastidio? Oggi di poter, sì, di sì, poter... certo, indubbiamente la Lazio ha diritto di vederci chiaro e questo è evidente, ha diritto di fare le sue rimostranze, però così. Ma per capire, in linea di principio, perché la Lazio dà fastidio? A chi dà fastidio? Ma guarda, qui entriamo nel terreno dei sospetti, no? Certo, certo. E quindi tutti quanti i sospetti possono essere fondati o infondati. Io dico semplicemente che nel momento in cui la Lazio si avvicina a diventare una squadra che può conquistare il posto in Champions, negandolo ad altri, si può scontrare con altri interessi. Sì, chiaro. Allora, io chiedo che questi interessi, da qualunque parte provengano, da chiunque siano, facciano parte, non incidano sull'andamento del campionato, perché vedi, ieri la partita era una partita ben giocata. Il Torino non ha rubato nulla, ha fatto una bella partita. E sarebbe stata una bella partita se fosse stata condotta ad armi pari tra due squadre in cui potevano vincere o l'uno o l'altro, indifferentemente. No? Sì, no, infatti, il discorso è chiaro. C'è anche un tema Giacomelli adesso, insomma, senza accanirsi. Non è all'altezza, insomma, quindi ieri... che un po' anche il discorso che faceva Inzaghi, che anche il discorso che faceva ieri sera attività che era Piano Cesari, perché poi c'è sempre l'elemento umano, no? Dietro alla macchina, dietro alla moviola, dietro al VAR. Guarda, ti dico, è un po' un peccato, perché la mia sensazione, no, un grosso peccato, perché la mia sensazione è che nelle ultime settimane pian piano si stessero un po' limando i meccanismi del VAR, no? Che comunque degli errori li aveva fatti, magari con il prossimo attività che faremo un bilancio della stagione, cercheremo di capire gli errori più gravi che ci sono stati. Ieri è stato uno degli episodi più clamorosi, se non il più clamoroso dell'intero campionato. Sì, perché c'è... Ripeto, è sbagliato, diciamo, dare la responsabilità al VAR, no, al mezzo, alla tecnologia, che invece è un mezzo che dovrebbe aiutare, no? Sì. Il problema vero è sempre l'interpretazione del mezzo. Perché... quello è fatale. Fatta la legge decide l'interpretazione. Anche lì siamo ancora qui a capire se la Federcalcio è commissariabile o no. A quanto pare non è commissariabile. La Federcalcio, sì, da parte del CONI. Siamo sempre lì in chiave interpretativa. Questo è normale se ti occupi di leggi. Posso chiederti ancora un secondo? Perché ci ha raggiunto Giuseppe Cruciani. Prego. Io credo che potremmo aggiungere qualche elemento di discussione subito dopo una delle nostre rubriche preferite. Traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Torniamo a bomba sui temi forti che ci ha lasciato la serata. Lazio-Torino, il VAR, Arturo Diaconelli responsabile della comunicazione a Lazio, per Luigi Pardo, Giuseppe Cruciani. Ciao Arturo. La Wikipedia non è in discussione. Eccomi. Allora, io dico due cose, Arturo. La prima è questa, che non per quello che riguarda la Lazio, il vittimismo adombrare un complotto non fa bene, cioè è qualcosa che non ci porta da nessuna parte per quello che riguarda ovviamente chi tifa Lazio, ma questo può essere esteso a tutte le squadre. Io ho sempre combattuto il vittimismo della Roma, del Napoli contro la Juventus, anche dell'Inter, per carità, e dunque lo faccio in questo caso anche per quello che riguarda la mia squadra. Secondo, trovo però allucinante il fatto che non ci sia chiarezza su questa VAR, cioè dopo vari mesi, inutile che ci dicano il bilancio è positivo, il problema è che è incomprensibile perché non venga rivisto il fallo di mano di Iago Falche. È incomprensibile. Allora, facciamo ai più così. Se uno non mette in campo la malafede, io non la metto in campo la malafede, devo pensare che quella cosa là sia considerata dallo stesso VAR come troppo ravvicinato quel braccio alla palla, al tiro, e dunque venga considerato involontario o non. Allora, spiegare anche la presenza di Arturo Diaconelli, te lo faccio spiegare da Luca Marelli, che è a detta di tutti ex arbitro, uno di quelli che più in Italia è addentro al fenomeno della VAR. Luca Marelli avrà sentito, hai sentito quello che ha detto Cruciani, spiegacelo. Ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao. Allora, è un cortocircuito in realtà quello che è successo ieri. Partiamo dal presupposto che il rigore è netto, non possiamo neanche valutarlo come involontario per la distanza o capito, per un eventuale tocco di ginocchio, che comunque non cambia assolutamente nulla, cioè un tocco di un'altra parte del corpo non modifica la posizione. Bene, quindi rigore. L'arbitro mettiamo che non lo vede o lo valuta. Perché dopo non viene rivisto? Scusa, perché non viene rivisto? Allora, il controcircuito è questo. In campo si vede proprio anche dalle immagini che Giacomelli nell'immediatezza si rivolge ai giocatori della Lazio, in particolare ad Immobile, e gli segnala: no, ho visto io, è involontario. In quel momento quella comunicazione arriva anche al VAR indirettamente, perché sta ascoltando, non sempre i microfoni aperti. Di Bello sostanzialmente fa questo ragionamento: lui l'ha visto, lo ritiene involontario, non entro nella sua valutazione. Il problema, quando parlo di cortocircuito, è questo. Sta circolando questa teoria secondo cui se l'arbitro dà un'indicazione chiara di aver valutato un episodio, il VAR non possa intervenire. Non è vero, perché questa è un'indicazione di massima e come tutte le indicazioni di massima ha le sue eccezioni. Nel protocollo non c'è scritto che dopo una comunicazione dell'arbitro il VAR non può intervenire, è una direttiva generica che è stata data agli arbitri di Serie A di avallare la decisione in campo per quanto possibile, per quanto ci siano. Quindi doveva intervenire. Luca, che siccome c'è una tendenza a limitare l'uso del VAR, non si interviene quando l'arbitro sembra aver preso una decisione, diciamo, sicura, giusto? Perfetto, Giuseppe. Questo significherebbe sconfessare completamente lo spirito del VAR. Perfetto, il VAR serve proprio per correggere gli errori clamorosi. Poi che sono d'accordissimo. Non c'è dubbio che Giacomelli pensasse, perché cioè quando è andato a vedere no? Quando è andato a vedere lì il monitor, dunque non ha visto, cioè non la questione del rigore non è stata nemmeno valutata, immagino, no? Esatto. Cioè, ragazzi, io trovo questo Arturo Diaconelli non pensa, per me è allucinante, cioè. Ma scusate, se l'interpretazione del VAR è questa, allora tanto vale tornare all'errore arbitrale del passato, no? No, che bisogno c'è di interrompere il gioco, mettere la tecnologia, No, ma poi quando un secondo prima si è verificato una cosa eclatante, cioè a detta di tutti eclatante, quando un secondo prima c'è stata una cosa eclatante, tu per un principio che hai stabilito in corsa, come diceva prima Marelli, per limitare l'uso del VAR, perché a qualcuno sembra sbagliato utilizzare sempre il VAR, tu ti impedisci, ti autocastri, cioè come Tafazzi, ti autocastri e non valuti una cosa clamorosa successa non 20 minuti prima, 5 secondi prima. No, ma è incredibile. È incredibile, e ripeto il concetto, cioè le regole di ingaggio devono essere chiare. Io sono a favore del VAR, però partite come quella di ieri mi fanno cominciare a pensare che, cioè, io non voglio cambiare idea, non mi fate cambiare idea. No, perché il VAR all'italiana, te lo dico io, e che purtroppo il VAR all'italiana, come Marelli sa, crea questo tipo di pasticci. No, però io voglio valutare un'altra cosa con l'aiuto di Marelli e anche di Diagonale, perché io sono convinto che l'episodio successivo, cioè l'espulsione di Immobile, che è oggettivamente più grave del rigore, poi per le ripercussioni che ha avuto anche psicologicamente nel secondo tempo sulla partita, sia però nato da un errore di Immobile. Cioè dire, l'arbitro è stato tra... e quei contrasti ci sono sempre in mezzo al campo. Questa è la base, secondo me non andava espulso Immobile. Però c'è una stupidaggine di Immobile, questo lo chiedo a Diagonale se è consapevole di questo o no. Perché quando tu sposti quella spalla e tenti, provochi il rischio, e quello è sanzionabile. Il rischio è che ti possano sanzionare perché tu hai provato a colpire l'avversario. Dunque, secondo me, quella è un po' una stupidaggine di Immobile, Arturo, o no? Un'ingenuità, dai. Ma guarda, ci possono dare mille motivazioni. No, devo dire che Immobile in quel momento era talmente imbufalito che mi sembra che si sia misurato nella sua reazione. Uno scontro che ne capitano a decine, dovremmo finire le partite sempre 4 contro 3. No, quello è vero, perché i giocatori in qualche modo si toccano in campo, sì. Si strattonano. No, anche... ma quella può essere attenuante generica. Credo di capire quanto dice Arturo. Può essere attenuante generica, talmente incazzato che fa una sciocchezza, il che non dovrebbe giustificare. Io voglio capire da Marelli che cosa è stato sanzionato in quel caso: il tentativo di colpire il giocatore, Marelli? Sì, ma comunque non cambia molto tra una testata o una spallata, è comunque un atto violento. Per te è giusta l'espulsione? Purtroppo sì. Ma no, ma dai, ma come si fa a definire giusta quell'espulsione? Ma come si fa? Ma lo stesso Burdisto ha detto che non c'è stata violenza. Ma insomma, no, secondo me, io sono con Cruciani, cioè secondo me l'espulsione non c'era, rimane premesso che poi siamo esseri umani tutti, che in quel momento giustamente Immobile era imbufalito per il rigore e per tutto il resto, una piccola ingenuità Immobile la commette, nel senso che comunque presta il fianco con quel gesto all'interpretazione dell'arbitro. Però io da Marelli voglio capire una cosa di Burdisso, che ho capito, ma quando ci sta una doppia interpretazione così sbagliata, prima l'interpretazione sbagliata sul rigore, che è un rigore che si dà anche nei campi degli giovanissimi. Questo siamo tutti d'accordo. Cioè, non è possibile. Dice, no, io ho visto, io sono l'arbitro e dico che non è rigore. Ma perché non è rigore? Ma metti che sia così, poi comunque il VAR va utilizzato. Poi? No, poi dicevi, Arturo? E poi di fronte c'è un errore di partenza che provoca tutti quanti gli errori successivi. Beh, ma se non viene valutato l'errore di partenza, è evidente che se giudica solo quello e l'ha giudicato violento, come diceva Marelli. Però io sono convinto dell'onestà intellettuale di Marelli quando dice che è rigore, perché però la realtà è questa: quando viene scannerizzato tutto in questo modo e non viene scannerizzato quello prima, già c'è la prima cesura, la prima follia. La seconda cosa è che se tu scannerizzi tutto al rallentatore, anche quella mini spallata, ha ragione Arturo, allora devi cacciare 40 giocatori perché quelle cose lì ogni corner diventa Luca, non ho capito, è così o no? La sagra delle espulsioni. Allora, io posso anche comprendere questo discorso, tant'è vero che questa mattina ho scritto che secondo me le possibilità erano due, sarebbero state due, cioè espulsione di Immobile e ammonizione di Burdisso, oppure salomonicamente ammonizione di entrambi per comportamento antisportivo reciproco. Quello che manca effettivamente in questa decisione è la sanzione per Burdisso, che ha un comportamento antisportivo, e non è vero quello di mettere la testa, dici. Esatto, e non è vero che attraverso la VAR non si possano sanzionare i comportamenti da cartellino giallo, perché nel corso di una review, come dice proprio il protocollo, per un episodio di eventuale violenza sfuggita all'arbitro, può essere punito anche un giocatore che si presti, che si presenti davanti all'avversario con atteggiamento provocatorio, come in questo caso. Sì, però ragazzi, se ci mettiamo, Luca, se ci mettiamo a sanzionare queste robe qui, il calcio è finito. Ha ragione Inzaghi quando dice il calcio è finito, cioè è un altro sport. No. Perché se ci mettiamo a cavillare sulla testa messa così, su una spalla allargata che può sembrare violenza, allora è finita. Ma è il regolamento, però. Sì, ho capito, il regolamento soprattutto finisce perché nel momento nel quale c'è l'utilizzo selettivo del VAR, nel momento nel quale un episodio viene, cioè il vero tema è perché non è stato rivisto al VAR il calcio di sì, d'accordo, cioè, capisci, questa è la madre di tutte le cose, no, quello non c'è dubbio, nel momento nel quale tu arrivi a questa conclusione qui e poi crolla tutto il castello. Il VAR è uno strumento positivo, sicuramente percentualmente riduce gli errori, però se ne riduce alcuni e su altre situazioni clamorose non interviene, diventa peggio di prima. Arturo, però tu sei ancora convinto? Il tifoso della Lazio oggi, ma che gli racconti? Cioè, no, ma infatti questo, Arturo, io voglio capire se la tua idea, quattro occhi di arbitro di VAR e arbitro di campo con le immagini non hanno avuto nemmeno la cosa di andare a rivedere quell'episodio lì. Arturo, tu sei davvero convinto, però come hai detto all'inizio io non c'ero, che ci sia una specie di non dico di complotto, ma non poi... so se hai utilizzato questa parola, però di un qualcuno, no, che vuole danneggiare la Lazio. Poi soprattutto io voglio sapere, ultima ripeto cosa, quello che ho detto all'inizio: sono contro il complottismo e contro il piagnisteo. Detto questo, però, non sono neppure contro le cose confuse e non chiare. A nome di tutti quanti i tifosi della Lazio, chiedo che non si ripetano errori di questo genere. Però le dichiarazioni deve essere corretto, deve essere trasparente perfettamente e non condizionato. Su questo siamo d'accordo tutti, credo tutti dal primo all'ultimo. Ma c'è qualcuno che interessa a non far andare la Lazio in Champions League? Questo ha detto dire? I competitors, potrebbero essere i competitors della, capito, della Lazio. Ma i competitors non è che armano l'arbitro di ieri, no. Non è che c'è il burattinaio di ieri. Ma possono essere non solo i competitor ma anche altri, ma insomma adesso è inutile altri che le televisioni in una discussione sui sospetti che poi non fa parte neppure della mia cultura. Devo dire che però, siccome la caterva degli errori è stata lunga e non si ferma, non si è fermata, credo che i tifosi della Lazio, la società e la squadra abbiano tutto il diritto di pretendere la chiarezza. Ma detto fate cambiare i regolamenti. No, al di là di questo, l'ultima cosa che voglio capire da te, Arturo Diagonale, poi ti ringrazio davvero, è le parole di Lotito: vorrei ritirare la Lazio dal campionato, sono una buttata determinata dalla rabbia, o può essere una... Ma che dai? Io sto chiedendo un'interpretazione. Le parole di Lotito, che io peraltro non so dove le ha pronunciate, però io ho parlato con Lotito. Il presidente mi ha detto che c'è una richiesta della tifoseria di compiere degli atti che dimostrino concretamente l'irritazione. Sarebbe una stronzata, dai, che potrebbero anche arrivare al ritiro, ma diciamo che è un'ipotesi estrema. È una roba per solleticare la piazza, per dare un po' retta alla piazza. È una stronzata, dai, su, è una stronzata, perché a queste cose si combatte cambiando il regolamento della VAR, o si vede tutto o non si vede niente. Questo è il punto, dai, questo è un regolamento ambiguo. Io vorrei pure introdurre un altro argomento: siccome nella vita chi sbaglia deve pagare, chi compie degli errori deve essere sanzionato. Cioè, l'arbitro in che modo deve essere sanzionato? Ci siano dei meccanismi che sanzionino gli errori troppo clamorosi, che altrimenti c'è l'impunità, e questo non questo può funzionare. Questo è un meccanismo, non è che uno si vuole accanire con Giacomelli, ma questo è un meccanismo che vale sempre, nel senso che comunque poi deve valere sempre, ci deve essere un regolamento, perché se un giocatore compie un attimo, viene sanzionato, sarebbe paradossale vedere quest'arbitro, tra l'altro è lo stesso arbitro che col VAR ha espulso, se non sbaglio, Bonucci e De Rossi. Esatto. Due situazioni quindi che erano sfuggite. In Milan Genoa e Genoa Roma. Sì. Esatto. Sì, evidentemente un po' sensibile a queste cose qua che avvengono, perché è lo stesso arbitro, per che carità, era dietro lo schermo domenica in Sampdoria Lazio, come abbiamo già detto. Marelli? Perché Marelli? Perché cosa? Perché cosa possiamo rimproverare a Giacomelli? Guardate, io ho ascoltato molta attenzione e secondo me la grande confusione non è tanto sul funzionamento del VAR, che piano piano lo stiamo capendo tutti. Il grosso problema è l'interpretazione di questi falli di mano. Il fallo di mano è sempre stato e rimarrà sempre, questo posso anticiparlo adesso fino al 2100, rimarrà sempre il passaggio più difficile per un arbitro, perché è un evento totalmente inatteso, perché un arbitro non si aspetta mai che un calciatore intervenga sul pallone con il braccio, con la mano. Il problema in questo caso è stato proprio di comunicazione tra arbitro e VAR. L'arbitro non doveva, assolutamente, non doveva proferire la frase "ho visto io involontario", perché in quel momento stesso ha inibito l'intervento del VAR. Se ci fosse stato al posto di Bello un arbitro con più personalità, a mio parere, questo è il mio parere, l'episodio sarebbe stato rivisto. Perché un Orsato, un Rocchi, un Tagliavento avrebbe probabilmente insistito alla VAR, insistito per farvi rivedere. Gli avrebbe detto ti consiglio di rivederlo. Mi scusate, ma io purtroppo devo fuggire. Ma certo, mi Arturo, anzi, anche noi. Grazie. Io ringrazio Arturo Diagonale, ringrazio Luca Marelli, Giuseppe Cruciani che fa svolgere la rabbia, per Luigi Pardo invece Motengo, e andiamo avanti a discutere dopo la borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Dopo una mezz'oretta di discussione dura e serratissima su VAR, televisioni, errori arbitrali, ipotesi di complotto, anatomia di un omicidio calcistico, divertiamoci ragazzi. Divertiamoci in modo serio ma leggero. Questo è l'inno del Pordenone. Questa sera c'è un grande evento mediatico, perché c'è Inter-Pordenone di Coppa Italia, ottavi di finale, cioè Pordenone che intera si riversa a Milano, finalmente vedremo uno stadio pieno, o quasi, avrà un bel colpo d'occhio. Io saluto Marino Bartoletti innanzitutto. Anch'io ti saluto, certo, peccato che siamo arrivati tardi perché il compleanno di Gianni Morandi era ieri, comunque un gran bellino, bello, poi, eh? E poi dai, rappresenta quella provincia che a me e a te è terribilmente cara. Ed è oggi sulle prime pagine, tanto che Pierluigi Pardo naturalmente con noi ci ascolta e interviene quando vuole. C'è Mauro Lovisa, che è presidente del Pordenone, e cui io, salutandolo, voglio chiedere una cosa. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Senta, ma al suo responsabile della comunicazione e dei social media, un aumento glielo dà? Perché ha fatto un lavoro straordinario con la partecipazione. Poi Marino, per non parlare di Pierluigi, sono molto più esperti di me in queste... su questo argomento, ma hanno fatto i ragazzi un lavoro straordinario, tutti hanno aderito a questa campagna diventata virale. Presidente. Sì, facciamo un premio, lo facciamo lavorare anche la domenica, così perché il lavoro nobilita le persone, sa come siamo noi Friuli, e quindi sì. No, sono due ragazzi straordinari, sì, veramente sono due, ma guardi, se avete modo di noi abbiamo uno staff veramente di alto livello, anche sotto, anche a livello giovanile, ho tutti i ragazzi giovani, laureati di un certo livello. Noi abbiamo cominciato questo percorso, oggi stiamo vivendo questa bella storia, secondo me giusto premio di un lavoro importante fatto in questi anni. Allora Pardo, Bartoletti, dite la vostra. Ma no, io innanzitutto gli chiedo stanotte se ha dormito e come se la immagina questo Inter Pordenone. Si è fatto un film mentale? No, il divario c'è, non bisogna nasconderlo naturalmente, no, adesso non bisogna, poi tutto deve rientrare, perché dopo sulla carta credo non ci sia partita, perché l'Inter è proprio troviamo la squadra in questo momento, poi anche mentalmente che è forte, poi secondo me l'Inter quest'anno ha un grande allenatore che io ritengo molto intelligente, molto furbo, molto scaltro nel calcio italiano, quindi noi peggio di così non potevamo trovare l'avversario, però questo naturalmente ci rende orgogliosi di andare in una grande piazza, credo che sia il punto più alto della nostra storia calcistica, e può solo farci bene. Marino, l'avversario peggiore o migliore? Appunto. È la serata per cui vale la pena vivere, esatto, e amare lo sport. Pordenone, che io amo tanto per tanti motivi miei, era terra di cestisti, di ciclisti, mi sembra che lo stadio sia intitolato Ottavio Bottecchia. Esatto, l'altro. Bravissimo. E adesso sì, è diventato anche terra di calciatori e insomma il vero spirito della Coppa Italia, dai, adesso non si potrà ripetere il miracolo dell'Alessandria di un paio di anni fa e anche del mio piccolo Forlì, per la verità, che giocò contro il Milan e dovete andare a Cesena perché nello stadio di Forlì non ci stavamo. Però ripeto, questa mobilitazione, questa democrazia calcistica e sportiva è la cosa più bella, il vero spirito della Coppa Italia, quella all'inglese, quella per certi versi, esatto, come dice la storia, alla francese col Calais e in fondo in questo momento anche all'italiana. Poi sai, come si dice, il calcio si gioca in 11 contro 11, hai visto mai? Io credo come ci siamo arrivati anche, no? Drammatizzando il tutto, no? Credo che sia importante questo, no? Avete giustamente bene voi, prima mezz'ora, no? Le polemiche ieri sera, noi ci arriviamo, è chiaro che è un'altra categoria, ma ci arriviamo in un modo giusto. Questa è una risposta bellissima, perché io ho ascoltato quello che avete detto prima, Pier e Carlo, ovviamente polemiche inevitabili, perché è stato talmente grossolano quello che è stato commesso ieri sera all'Olimpico. Ma adesso respiriamo veramente una boccata d'aria buona parlando di Inter Pordenone. Le malefatte restano, ma se Dio vuole il calcio anche quello di stasera, al netto devo dire degli spot della Rai che mi hanno fatto un pochino sorridere, naturalmente da vecchio affezionato utente, perché sembra che presentino Inter Real Madrid. E invece è niente meno che Inter Pordenone, lo guarderemo tutti. Sì, sì. Ma siamo in Champions, guardate che state sbagliando, avete visto che ci ha messo sul campione della Champions. Assolutamente. No, devo dire che c'è una. A me piace molto. Allora, questa qui in realtà è una formula che sappiamo che dà una grande mano alle grandi e rende la Coppa Italia un prodotto televisivamente molto interessante, perché assicura 12-13 serate veramente di grande livello, e come la famosa battuta, la cosa bella della Coppa Italia è che comunque in finale vanno due italiane, comunque vanno a finire, e devo dire che le grandi sono molto blindate da questo punto di vista, e secondo me sarebbe, capisco il fascino del viaggio verso San Siro, ma secondo me sarebbe ancora più bello in questa, per prendersi proprio lo spirito all'inglese, giocare in casa della squadra più debole, perché adesso Inter Pordenone è diventato un grande evento mediatico proprio perché è una particolarità e perché sono stati molto bravi a Pordenone, ma in generale Pordenone-Inter è sempre più interessante di Inter-Pordenone, cioè la bellezza, qualche volta mi è capitato anche di raccontarle, quando la grande squadra va nella città di provincia e lo stadio si riempie sempre, e c'è anche la possibilità di qualche sorpresa in più, quindi di io sono d'accordo, in termini di regolamento, di logica sarebbe meglio, quello, la cosa da fare. Però nel salutare il presidente Lovisa faccio presente che questa sera correggo il mio maestro Bartoletti, non saranno 11 contro 11, saranno 11 contro 56 milioni, perché secondo me anche gli interisti ti faranno Pordenone. Questo non lo so, perché noi abbiamo dei tifosi friulani che mi hanno già dichiarato che ti faranno l'Inter. Mi sa che il tifoso dell'Inter è molto, diciamo che è molto affezionato, però sono andato per simpatia, dai ragazzi, dopo è chiaro che, ripeto, cioè, però guardate che non sottovalutate il Pordenone, che sul piano tecnico credo che sia una strada molto Presidente, ci faccia sognare, reciti la formazione di stasera. Beh, credo che, non ho parlato ancora con Colucci perché sto arrivando a Milano, credo che in linea di massima sarà quella che ha giocato a Cagliari. Cioè? I nomi vogliamo, chi marca Icardi? Ma non credo che giochi Icardi, perché peggio per lui. Si perde Inter Pordenone. È stanco Icardi. Vabbè, la formazione non ce la vuole dire, fa pretattica. No, non lo so, onestamente per correttezza non lo so, non vorrei dire. Viva la Lega Pro, Presidente, che è un bellissimo campionato. Viva la Lega Pro. Dobbiamo lavorare ancora anche lì un po', migliorare alcune cose, però un paio d'anni abbiamo già migliorato diverse cose. Ancora un paio d'anni e poi ci arriviamo. Grazie Presidente, appuntamento a San Siro. Intanto le faccio sentire cosa succede, visto che è in viaggio sulle strade. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocar. Pierluigi Pardo, martedì a quest'ora è anche Bartoletti Time, naturalmente, tutti lo state aspettando. Ci sono vari altri argomenti che potremmo trattare, ce ne sono un milione in realtà. Uno di questi lo lasciamo lì in sospeso, è il caso Donnarumma, questa vicenda pseudo-contrattuale per cui pare che Raiola e il suo entourage, la corte di avvocati, abbiano chiesto l'annullamento del contratto per pressioni psicologiche nel momento in cui ha firmato, pressioni psicologiche su uno che beccava 100 milioni, adesso poi ne ha firmato uno da 11 milioni l'anno. Mi sembrano quegli annullamenti che si chiedevano alla Sacra Rota una volta. Sì, no? Matrimonio, no, matrimonio rato e non consumato. Dicevano che sì, in fondo quello volevano sulla vicenda di Donnarumma, torno a quello che ci siamo detti. Io non so come finirà. Non so come finirà e non so neanche, siccome siamo ancora nell'ambito, diciamo, delle congetture, delle cose che devono essere capite, dei si dice, però io credo che di non solo contratto viva un calciatore e soprattutto un calciatore giovane come Donnarumma. E ripeto le cose che dicevo quest'estate, cioè esiste anche un'immagine di un calciatore che è importante, perché innanzitutto perché ti fa star bene, perché ti fa ti fa vivere tranquillo, ti fa sentire amato dalle persone. Poi ieri sera avevamo l'ospite Ario Zanetti, no? che è uno di quei calciatori che anche i tifosi delle altre squadre, forse qualche polemica sul calciatore c'è stata, ma anche è uno di quei giocatori che comunque è stato riconosciuto, no? da tanti come un punto di riferimento, e si è fatto 20 anni di carriera nello stesso club. È un tipo di cioè, è qualcosa di tangibile, di concreto. La Donnarumma è un ragazzo giovane che ha tutta la vita davanti, ha tutta la carriera davanti. Io quello che mi posso permettere è di non fare errori dal punto di vista mediatico, perché già il modo nel quale si è arrivati a quel contratto, questo è chiaro, ne abbiamo parlato in tutti i modi, però qui andiamo nel ridicolo dicendo pressioni psicologiche. Allora, Giorgio Luca prima ha chiamato l'avvocato Mattia Grassani, ma ne parleremo poi nei prossimi giorni, perché non abbiamo fretta, la prossima settimana sarà ai nostri microfoni. Sta studiando sul fronte Milan il dossier di Donnarumma, ci racconterà tutto e lì proveremo a capirci qualcosa. Ma c'è un altro argomento che invece voglio trattare con il professor Martoletti, che mi interessa anche di più, anzi certamente di più, perché ieri ho sentito delle dichiarazioni di Pavel Nedved, che mi hanno lasciato un po' basito, queste su Dybala. Un ragazzo che c'ha 24 anni, che ci sta, che può avere alti e bassi durante la stagione, perché è assolutamente normale. Lui sa che c'è là la società che gli sta sempre vicino, e quando ha bisogno ci si può parlare, ci si può appoggiare. Ovviamente lui è un tipo di giocatore che può raggiungere degli obiettivi massimali come calciatore, perciò l'unica cosa che gli consiglierei è di fare tanti sacrifici nella vita privata e di fare veramente calciatore e fare sul campo il massimo possibile, allenarsi alla grande, e così sicuramente potrà arrivarci. Ecco Marino, non so quante volte in carriera ti sia capitato di sentire parole di questo tipo, ma come, senza saper nulla, tu come le interpreti? Intanto mi fai chiosare, sì, cantando la vicenda Donnarumma. Non siete tenuti a ricordare l'amore è partito di Beppe Cardile, ma diceva l'amore è partito per un lungo viaggio per dimenticare come l'hanno trattato. Vabbè, tanto la togliamo dalla registrazione, no, rimane agli annali. Ha fatto bene anche in questi casi. In questo caso mi sembra che si tratti di problemi di cuore, sui quali però forse è meglio essere particolarmente delicati. Credo che Dybala abbia suoi problemini personali, sentimentali, che per la verità aveva anche quando giocava bene. Adesso ha un problema fisico, secondo me, su cui è giusto che la Juventus anche pubblicamente lo richiami, perché là dove non arrivano comunque i warning di Allegri con la panchina, là dove non arrivano i suggerimenti affettuosi di chi gli sta vicino, forse è arrivato il momento che questo ragazzo di 24 anni, che è detentore di un talento straordinario, venga messo in condizione di esprimere questo talento, per il cambio del quale prende, non mi ricordo se 6 o 7 milioni all'anno. 7 e mezzo, se non ricordo male. Ecco, allora io sono padre, giovane, vecchio padre, giovane nonno, ma in quanto tale mi permetto di mettergli una mano sulla spalla a questo ragazzo e di assecondare quello che la società, in maniera anche molto ferma, mi sembra che abbia detto. D'altra parte, sai, io non so se bisogna cercare la femmina in questo caso, non è il primo caso, perché io sono a Napoli in questo momento. e tutti ricorderete sicuramente il caso Attila Sallustro, Lucy Dalbert, no? Correva l'anno 1934, poi si sono sposati, sono stati felici, ma insomma l'amore c'entra sempre qualcosa anche nelle vicende calcistiche. Sì, c'è un tema secondo me anche sulle dichiarazioni di Nedved che va in qualche modo trattato. Io sono fra quelli che pensa, per esempio, che disse a Mughini, che certamente non è anti-juventino, anzi. Però è anti-giovanotti, ma molto intristito questo. Mi ha veramente addolorato. Proprio, no? Ma no, non si parla così giovanotti. Ma non è anti-giovanotti. Vabbè, ma sai, io ero in estasi, quindi... Ma anch'io, anche tutti noi li guardavamo. Appunto, perché fa così, Giampiero? Vabbè, perché ne ha viste tante della vita. Dai, è Michelangelo. No, comunque, a parte le battute, quindi hai sentito quel passaggio di Mughini, nel quale, secondo me, cioè, legittimamente interpretava, come tanti hanno fatto in queste ore giornalisticamente, le parole di Nedved, che sono, secondo me, parole di un calciatore speciale, perché come ricordava anche ieri sera, Nedved era uno veramente che passava le vacanze di Natale a Formello nel periodo romano per allenarsi meglio degli altri, perché finalmente era libero di allenarsi come voleva. Quindi stiamo parlando di un calciatore da questo punto di vista che può stare simpatico, può stare antipatico, ovviamente a seconda delle però è stato un grande, con una grande etica, ecco, è un esempio totale di proprio di abnegazione, di professionalità, di impegno, cioè. E secondo me lui voleva semplicemente dire questo. Certo, quella frase lì si presta a varie interpretazioni, stiamo parlando di comunicazione non belle, cioè veramente, come ha detto Mughini, sembra che faccia, diciamo così, la bella vita di Bala, che da quello che mi risulta non è assolutamente l'argomento, quindi no, ma dicono anche sia questione contrattuale, non brillantissima, ma così è, se vi pare. Professor Bartoletti, non riusciamo a parlarne, ma chi passa tra Paris Saint-Germain e Real Madrid in Champions League? Beh, diciamo Conte che finisce ancora fuori agli ottavi? Diciamo che il cuore mi dice Real Madrid per tanti motivi, perché veramente io non ne posso più dell'arroganza di squadre che pensano di cambiare la storia del calcio comprando un giocatore. Parvenu, si dice una volta. Vabbè, chiamalo come, non so come si dica in arabo comunque, però va bene così. Guarda, non... Conte va fuori, Marino? Conte rischia di andare fuori dalla Coppa e anche dall'Inghilterra. Eh sì, ecco, ho questa idea anch'io, perché alla signora Marina poi bisogna raccontargli l'abbraccio destro di Roman Abramovic. Grazie come sempre Marino Bartoletti, Pierluigi Pardo, Giorgio Luca nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani tutti convocati alle 2:14. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.